American Chimera sarà presente all'interno del Terre di Tutti Film Festival il 9 ottobre alle 22 al Cinema Lumière. Che storia racconta, Francesca, questo documentario? Dunque, American Chimera racconta la storia di Mirna e Dariela, che sono le protagoniste del nostro film realizzato con Fabio Buccerelli. Sono due donne che insieme alle loro cugine e figli scappano dalle Maras, dalla criminalità organizzata in Honduras, e percorrono a piedi più di 4.000 km per raggiungere Tijuana, in Messico. Fondamentalmente percorrono questo lungo viaggio con la carovana migrante e arrivano a Tijuana, è il luogo dove noi le abbiamo incontrate. Tijuana c'è appunto una situazione d'emergenza nella quale queste donne, insieme a tanti altri migranti, alla fine riescono a fondamentalmente fanno varie prove appunto per passare il confine, per passare il muro. Noi conosciamo Dariela e Mirna durante un momento nel quale loro vengono rimandate indietro, durante una prova, durante un tentativo. E vengono rimandate indietro purtroppo dalla polizia di frontiera americana, in un momento nel quale loro erano rimaste intrappolate tra il muro e il filo spinato. Quindi già direttamente in territorio americano, però vengono minacciate dalla polizia, quindi sono costrette a tornare in Messico. Quindi da lì in poi c'è appunto un'odissea che poi appunto prosegue con i tentativi. Sono donne, sono migranti che scappano da una violenza quotidiana molto molto pesante. Mirna ha perso vari familiari perché faceva fatica, non riusciva più a pagare le estorsioni richieste dalle Maras, e quindi avvengono proprio delle uccisioni mirate, insomma. Quindi fondamentalmente Mirna, insieme a tutti i suoi figli, cerchi di raggiungere gli Stati Uniti per costruire un futuro migliore per i figli e per le figlie. Questo documentario si sviluppa anche negli Stati Uniti, perché appunto una volta che questo gruppo di cugine sono riuscite a oltrepassare il muro, avevano un contatto con una patrocinadora, uno sponsorship, nel Kentucky. Fondamentalmente attraverso un contatto americano, vengono prima schedate e gli viene messo un braccialetto elettronico legato alla caviglia a San Diego, e poi vengono spedite appunto nel Kentucky, dove le aspetta una ricca ex repubblicana, che è anche un'ex ufficiale dell'esercito, che è Miss Vonnette. Miss Vonnette apre la porta di casa sua, di questa grande villa, perché è intenzionata fondamentalmente a fare un'attività dal suo punto di vista anche di integrazione, cioè lei vuole ospitare migranti e vuole aiutarli nel percorso molto difficile, molto complicato di integrazione negli Stati Uniti. Quindi si sviluppa il documentario anche negli Stati Uniti con delle scelte differenti, perché le nostre due amiche, insomma, cugine, prenderanno scelte diverse che poi appunto porteranno a conseguenze differenti. Certo, ti volevo fare una domanda anche su un altro lavoro, il tuo lavoro più recente, che è The Italian Doctor, che non è presente all'interno Terra di Tutti i Film Festival, però appunto è un lavoro a cui tu tieni particolarmente. Certo, questo film è stato commissionato da Witness, che è uno strand di Al Jazeera English, ed è stato commissionato durante il lockdown, durante appunto diciamo, il momento peggiore dell'epidemia in Italia, quindi marzo. Questo invece verrà presentato al DIG Festival esattamente in questa settimana. Questo film, diciamo che ci tengo perché parla in maniera intima e personale comunque di una problematica ancora molto contemporanea nelle nostre vite, cioè appunto il Covid e le sue conseguenze. Quindi io ho seguito, è un documentario che è un observation, un character driven, quindi seguo questo specializzando, che è uno specializzando in rianimazione, che in maniera volontaria si propone per andare appunto durante l'esplosione dell'epidemia a lavorare in rianimazione a Bergamo, nell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Quindi si ritrova ovviamente nel posto più colpito, nel luogo più colpito della pandemia, ed è una storia molto umana perché seguo Alessandro sia in terapia intensiva che nel suo isolamento, nella sua solitudine e nelle sue poche relazioni. Quindi è uno sguardo, diciamo, a una storia singola per parlare appunto di valori universali e di situazioni che ci siamo vissuti tutti. Certo, io ti ringrazio Francesca per i tuoi approfondimenti appunto sui tuoi ultimi lavori e ti ringrazio. Grazie mille a voi.